La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Vi ricordiamo il numero per i nostri sms: 349-238-6666. Ma iniziamo con quanto sta accadendo fuori da Montecitorio. Rese noto due motivazioni in una giornata sola su Silvio Berlusconi. La prima è stata scritta dai giudici della Corte d'Appello di Milano e riguarda la conferma della condanna nella vicenda dei diritti Mediaset. Per i giudici di Milano, Berlusconi guidava l'azienda anche quando era premier. E la seconda arriva dai giudici della Cassazione, che si esprimono sul no al trasferimento dei processi Ruby a Brescia perché la richiesta era ispirata da strumentali esigenze latamente dilatorie piuttosto che da reali e profonde ragioni di giustizia. Il Movimento 5 Stelle attacca, è la prova dell'ineleggibilità di Berlusconi, mentre ovviamente il Popolo della Libertà contesta. Per il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, nel leggere le motivazioni della sentenza sui diritti Mediaset, il nostro convincimento che si basasse su illazioni diventa certezza, nessuna prova, dice Gasparri, non un riscontro, solo ipotesi. Veniamo poi alle riforme istituzionali, anche qui divergenze tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza, perché la capogruppo alla Camera Roberta Lombardi dice no alla proposta del ministro Gaetano Quagliariello su una corsia preferenziale per le riforme, mentre propone un referendum prima della discussione. Inoltre il Movimento sarebbe più propenso a una repubblica parlamentare, anche se la Lombardi dice sono opinioni personali, prima bisogna ascoltare la rete, il web ovviamente, perché online faremo un referendum online, ma loro vogliono anche fare proprio un referendum di altro tipo. Sentiamo cosa ci ha detto Lombardi. Il discorso che ci è stato fatto ieri da Quagliariello non ci ha convinto. Punto primo, perché il governo ha già dato una restrizione molto focalizzata su quelle che sono le forme di governo che intende sponsorizzare, che sono la parlamentare razionalizzata o il semipresidenzialismo alla francese, quindi una preminenza del potere esecutivo su il ruolo del Parlamento. È già un primo approccio che non ci piace. Poi ha parlato di una consultazione popolare ex post, di ratifica anche se si superassero i famosi due terzi, eccetera, eccetera. E a noi piacerebbe che avvenisse ex ante, magari creare una volta tanto un dibattito pubblico e poi magari fare un referendum di indirizzo con più quesiti che permetta, dopo la fase informativa e il dibattito pubblico, agli italiani di scegliere quella che è la forma costituzionale a loro più congeniale. Sia le riforme costituzionali se partecipate prima dai cittadini e non subite. Lombardi del Movimento 5 Stelle, quindi dal Movimento 5 Stelle la richiesta che tutto sia partecipato anche sulla rete per quanto riguarda le riforme. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Da parte del PD invece si conferma la riforma della legge elettorale entro il 31 luglio e una riforma istituzionale per dare più poteri al governo. Sentiamo allora quello che ha detto Gianclaudio Bressa, che nega la corsia preferenziale per le riforme. Non è una corsia preferenziale per le riforme, è una modalità di lavoro che prevede che le due commissioni affari costituzionali di Camera e Senato vengano investite del compito di elaborare dei testi di riforma della Costituzione che poi verranno votati dal Parlamento. È semplicemente una modalità semplificata che però resta all'interno delle procedure previste dal 138, nel senso che si cambia il percorso, ma la qualità delle garanzie resta inalterata, per cui non c'è nulla di strano nel fare questo. Ma il Partito Democratico che cosa pensa? Un semipresidenzialismo, a un rafforzamento dei poteri del Premier, a un sistema proporzionale? Insomma, c'è un'idea oppure vi dovete ancora consultare? Sono 30 anni che stiamo parlando di riforme, 30 anni che stiamo cercando di razionalizzare la democrazia parlamentare in questa direzione, cioè dando al governo più potere, ma sempre in un quadro di rapporto strettissimo con il Parlamento. Di questo discuteranno le commissioni, perché questo è uno dei problemi più importanti che abbiamo, non è l'unico. L'altro grande problema che abbiamo è il bicameralismo perfetto, che è fonte di grande disfunzione. Letta ha promesso la riforma della legge elettorale e la bozza entro il 31 luglio. Ce la farete oppure state sempre un po' litigando col PDL, sembra? Io credo che la notizia è che entro il 31 luglio il Parlamento approverà una nuova legge elettorale. E questo era Gianclaudio Bressa, vi ricordo, del Partito Democratico, il numero per i vostri sms 349-238-6666 che vi preghiamo siano di politica. E leggiamo quello che ci è arrivato: la Lombardia e non solo dovrebbe utilizzare la rete anche per farsi un minimo di cultura, come nel caso limite del limite di età per il Presidente della Repubblica, ci scrive Max, ovviamente una critica, e però non dice che vuole coinvolgere il web ma i cittadini, un altro radioascoltatore. Le riforme costituzionali sono rischiose perché negli ultimi 20 anni sono state tese solo all'eliminazione di diritto e questo ha fortemente sgretolato la democrazia. E vediamo invece che cosa ne pensa il PDL, perché per il PDL è importante mettere in sicurezza la legge elettorale. Sentiamo cosa ti ha detto Paolo Romani. La legge elettorale rischia di avere un processo di incostituzionalità fra qualche mese, quindi va messa in sicurezza, visto che è quello che si dice in questi giorni. Mettere in sicurezza vuol dire fare una riforma semplice in attesa di una riforma successiva della legge elettorale. Per quanto riguarda le riforme, le grandi riforme costituzionali, ci stiamo rendendo tutti conto quanto sia ingovernabile il Paese e questa classe politica, se lei me lo consente, è in grado di fare le riforme costituzionali in un senso di maggiore forza dell'esecutivo, di maggiore semplificazione del meccanismo legislativo e dell'alleggerimento dei costi della politica. Quanto anche la vita stessa del governo può essere legata a questo obiettivo delle riforme? La vita del governo indubbiamente ha un legame con la durata del percorso riformatore. La Costituzione, come lei ben sa, obbliga un'attesa di 3 mesi fra la prima e la seconda lettura, ma di ciascuna Camera, cioè non è obbligatorio fare la prima lettura a Camera e poi Senato e poi aspettare 3 mesi. I 3 mesi scattano dalla prima lettura della Camera e dalla prima lettura del Senato. Quindi complessivamente un percorso riformatore che modifica la Costituzione può anche valere non più di 5 o 6 mesi, che è un tempo ragionevole. La durata del governo può, a mio avviso, dipendere anche da questo. E questo potrebbe consentire finalmente, dopo un governo di larghe intese che risolve i problemi dell'emergenza e delle esigenze di riforma, poi procedere e riportare l'Italia a quel sistema bipolare che è stato vincente, a mio avviso, in questi ultimi anni in termini di stabilità dei governi. E poi, Vincenzo, c'è un altro fronte, un'intervista che potrete trovare sul nostro sito web www.radio24.it a Massimo Artini, deputato grillino, che insieme a tutto il Movimento 5 Stelle chiede una commissione bicamerale sul Monte dei Paschi, ovviamente un'accusa al PD. Lui ci ha detto è evidente un coinvolgimento del Partito Democratico in una gestione che loro hanno definito, insomma, disastrosa. Allora, vi ricordiamo che il numero per i nostri sms anche in chiusura è 349-238-6666. Il PD ormai è una DC senza pensiero. Per fortuna, ci scrive un radioascoltatore, ci sono i 5 Stelle. I nostri radioascoltatori sono sempre grillini un po'. Assolutamente. Ricordiamo anche, Elisabetta, che domani chiusura della campagna elettorale per le amministrative. Si vota domenica e lunedì in tante città e domani sera comizi conclusivi a Roma, ma anche in altre città dei principali leader politici. E sarà importante vedere che cosa succede proprio nella capitale con questo comizio, tra le altre cose conclusive al Colosseo di Silvio Berlusconi, ma insomma vedremo un po'. E un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.